Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, voglio salutare il dottor Franco Confalonieri. Si è spostato di giorno, ma ci seguirà anche per tutto questo mese di agosto. Ogni lunedì verrà a trovarci perché lui vuole farci muovere anche quando siamo in vacanza. Dottor Confalonieri, grazie innanzitutto per essere con noi. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Sì, vorremmo dare qualche consiglio breve e sintetico che ci aiuti a stare meglio durante le vacanze. Proviamoci. Allora, il primo passo? Che il grande obiettivo di tutti magari è non siamo soddisfatti del dimagramento raggiunto con la dieta durante questi mesi, oppure non ci abbiamo nemmeno provato, diciamo ok, adesso che sono in vacanza un po' più di tempo, prova a dimagrire davvero attraverso l'esercizio fisico. Allora, andiamo. Dimagramento, un programmino semplicissimo. Alterniamo una giornata in cui ci dedichiamo a 30-45 minuti di attività continuata. L'ideale sarebbe la corsa per uno che ha un minimo di capacità di corsa. Se non l'abbiamo, prendiamo la bicicletta, 45 minuti, anche la mountain bike, anche la bici da passeggio sul lungomare va benissimo. L'importante è pedalare a lungo in modo continuativo e con una frequenza elevata, quindi un rapportino, come si dice, e far girare le gambe velocemente. Ah, ecco, io già pensavo... No, assolutamente. No, un po' di tono, su. Velocemente, con poca fatica ma tanti movimenti. E alterniamo questo tipo di allenamento un giorno con un allenamento invece completamente diverso nell'altra giornata. Allora, se abbiamo la possibilità, ci scegliamo una lezione di fitness, di aerobica, di acqua fitness o comunque di ginnastica con della musica, se no ce la strutturiamo per conto nostro e cerchiamo di alternare 30-45 secondi di esercizio ad intensità molto elevata con 30-45 secondi di riposo, di recupero. Parlavo di una lezione di fitness o di acqua fitness perché è più divertente. Sì, ma se non abbiamo proprio, se uno è in montagna, ad esempio, se non abbiamo soluzione, possiamo anche in questo caso ricorrere alla bicicletta piuttosto che al cammino. Però invece di fare l'uscita come abbiamo previsto nell'altra giornata di allenamento, qui facciamo 30 secondi a tutta, uno sprint, e poi riposiamo magari per un minuto, un altro sprint e poi riposiamo. Ci sarà il problema che chi ci vede dice questo, sono andato. Questo è fuori, però dirà ha sentito però, i consigli del dottor Confalonieri, che è una garanzia. E l'efficacia di questo programma, se riusciamo a seguirlo 6 giorni a settimana alternando i due allenamenti con un giorno sacro di riposo in cui non facciamo nulla, però deve essere garantita necessariamente la domenica o possiamo prendercelo anche a metà settimana? Possiamo farlo il giorno che organizziamo qualcosa di diverso, che manca la motivazione o che più semplicemente piove o fa freddo. Allora, quindi oggi praticamente, perché lunedì iniziamo, così andiamo tutti insieme, esatto, con lo stesso passo, così ci incontrano e facciamo tutte le stesse, esatto, cose, dicono sono tutti... Esatto. Allora, oggi sono i 30-45 minuti di attività continuativa. Bravissima. Domani invece facciamo domani o l'acqua fitness o una l'acqua lezione gym, di ginnastica o di acqua fitness, di acqua gym, o un'attività anche individuale in cui alterniamo 30 secondi circa di attività di intensità molto elevata con un minuto di attività più tranquilla, per un totale anche qui intorno ai 18-20 minuti, non di più. Allora, dottor Confalonieri, proveremo e intanto le do appuntamento a lunedì. Invece noi andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Dai voce ai tuoi problemi di voce. A ogni piede la sua scarpa. SOS rughe della fronte. Sì, oggi parliamo della voce, delle attenzioni necessarie per mantenerla sana, dei disturbi che possono interferire sul suo buon funzionamento. Oggi ho due esperti qua in studio con me. Abbiamo la dottoressa Giovanna Cantarella, che è specialista in foniatria e otorinolaringoiatria all'ospedale Policlinico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. È tornato a trovarci il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Parleremo di prevenzione e di cura. Scopriremo quindi i fattori di rischio e quelli di protezione, i campanelli di allarme, i sintomi da non trascurare per non sbagliare o cercarlo di farlo il meno possibile. Io qualche cosa ho sbagliato, adesso vi faccio sentire com'era la mia voce, poi così mi dite che cosa ho fatto di male, basta che non me le diate, adesso andiamo a sentirla. Oggi una puntata al femminile, parleremo di prevenzione, lo faremo con l'aiuto di tante esperte che ci aiuteranno ad occuparci della nostra salute a 360 gradi. Mi faccio pena da sola, dottor Franzetti. Eh sì. Mi bastoni pure. No, no, ma assolutamente, ma questo è soltanto segno di dedizione, perché qui c'è stato un raffreddore che è partito tutto da lì, per cui c'è stato un raffreddamento e poi siccome bisognava andare in trasmissione comunque, e allora si è sforzato un pochettino la voce e si è chiuso un pochettino un circolo vizioso, per cui non respirando dal naso, dovendo respirare scorrettamente, quindi forzando di più le corde vocali, si è pian piano fatto una cosa che si chiama surmenage, cioè uno sfregamento troppo energico delle corde vocali, e le corde vocali si gonfiano, si dilatano, bisogna sempre più forzare per parlare, la voce e diventa via. Disfonica. È un gatto che si morde la coda. E quindi abbiamo già individuato una delle possibili cause, un raffreddore trascurato, ma vedremo anche tonsilliti, laringiti, che in qualche modo possono essere l'inizio di una perdita della voce. Ma dottoressa Cantarella, noi possiamo sforzare la voce senza sapere? Ma voi siete in grado ad orecchio di capire se la persona che vi parla ha una voce riposata o affaticata, se la usa bene o se la usa un po' male? Sicuramente ci sono delle caratteristiche della voce che ci fanno capire che la persona è in difficoltà, per esempio quando avvertiamo che c'è una sorta di fame d'aria durante l'eloquio, quindi una persona che parla magari troppo velocemente, che arriva alla fine della frase senza fiato e che sforza quindi in maniera eccessiva le corde vocali. Però non sempre l'aspetto, diciamo, qualitativo, percettivo della voce è indicativo della situazione di sforzo vocale. Alcune persone riescono a dissimulare la patologia delle corde vocali in quanto mettono in atto dei meccanismi di compenso, quindi forzano sulla muscolatura delle corde vocali, del collo, riuscendo a produrre una voce che appare normale, ma magari vivono, sperimentano una grossa fatica fonatoria e arrivano magari a fine giornata con una situazione di profondo affaticamento. Quindi diciamo che molte persone, molti pazienti vengono da noi magari non per una raucedine, non per una situazione di voce alterata, ma proprio per la fatica fonatoria che sperimentano. Allora, se andiamo a sentire alcune delle voci di Radio 24 e così le mettiamo un po' sotto, mi veniva da dire il vetrino, ma all'orecchio dei nostri esperti per capire se la loro voce la usano bene, così nel caso ci fossero dei consigli prontamente insieme a Laura Vanossi poi andremo a riferirglieli. Inizierei con Gigi Garanzini, la voce di Radio 24, una voce magnifica, e Roberta Giordano, altrettanto tanto bella, ma andiamo. In classifica chiusa, richiusa, la lotta al vertice resta apertissima, è la corsa al quarto posto. Roberta Giordano sempre con voi e con me come ospite, come opinionista di oggi sui Fatti della Settimana c'è Massimo Fagioli. Dottor Franzetti, le affido, quale voce vuole? La voce del dottor di Gigi Garanzini al dottor Franzetti e affidiamo invece la voce di Roberta Giordano alla dottoressa Cantarella. Beh, la voce di Gigi bellissima, impostata benissimo. Insomma, quasi un attore. Però c'è una cosa che capita molto spesso inconsciamente a me e anche a tante persone con la voce molto ben impostata. Noi muoviamo le corde vocali anche quando non parliamo. Cioè, come? Quando pensiamo. E infatti, parlate tra voi e voi? No, noi, ciascuno. Per esempio, lui quando fa delle pause dice no? Oppure allunga le parole. Oppure, ecco, questo è comunque un atto vocale che uno fa. Sarebbe importante in queste pause, in questi allungamenti, eccetera, invece provare a rilassarsi, magari a fare un attimo di respirazione in più. Questo, se diventa spontaneo, chiaramente non forzato, può far riposare, soprattutto per chi usa la voce in maniera professionale, far riposare un pochettino di più le corde vocali. Per esempio, se noi ascoltiamo una canzone, anche se non la stiamo cantando, le corde vocali un pochino si muovono. Dottoressa Cantarella, le affido Roberta Giordano. Ma direi anche questa una bella voce, pulita, chiara. Ecco, bisogna ricordare che è necessario darsi delle pause adeguate di riposo proprio per lasciar recuperare le corde vocali e poter riempire di nuovo i polmoni di aria. Vedete, già ascoltando le due voci noi abbiamo recuperato due consigli che valgono un po' per tutti, quindi parlare un pochino più lentamente e cercare di non allungare troppo le vocali, insomma di mettere un po' a riposo le corde vocali. Ma intanto sentiamo come se la cavano Alessandro Milan e Marta Cagnola. 24 mattino. Alle 8:48 minuti, saluto allora il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. English 24. Questa sera la dedichiamo a un'attrice molto bella, molto elegante, anche molto famosa. Si chiama Cate Blanchett. Dottoressa Cantarella, le affido le corde vocali del collega Alessandro Milan. Bravissimo, tra l'altro. Bravissimo, direi, niente da dire. Mi sembra una voce assolutamente normale, armoniosa, melodica e di tonalità un po' più acuta rispetto a quella che abbiamo sentito in precedenza, quindi con una tonalità, un timbro diverso, ma assolutamente in un range di normalità. Mentre Marta Cagnola la affidiamo al dottor Franzetti. Ma direi una bellissima voce. Volevo chiedere, tanto che abbiamo già ascoltato le voci di Radio 24, quali potrebbero essere i segnali da creare, tali da crearci un po' un sospetto di una voce affaticata, stressata, o di una voce con magari qualche che si trascina i postumi magari di un'influenza, di un raffreddore trascurato. Dottor Franzetti. Diciamo che ci sono dei segni che possono immediatamente far cogliere un affaticamento. Sì. Intanto una sensazione di tensione o di stringimento intorno alla muscolatura del collo, perché uno comunque quando sforza la voce usa tutta la muscolatura del collo. Sì. E questo già potrebbe già essere un segno. Poi il fatto che uno inizia a fare attenzione al fatto che ha bisogno di respirare di più e più spesso quando parla. Sì. E quindi non riesce a utilizzare appieno il fiato quando lo prende. Sì. Perché altrimenti la voce scappa via, cioè cala, non riesce a tenerla, deve forzarla di più. E poi io farei sempre molta attenzione a come si respira col naso. Se respiriamo con la bocca aperta col naso. Dottoressa Cantarella, un segnale importante da riferire, magari non dico al medico, ma di cui parlare oggi in trasmissione? Ma come si diceva, la sensazione di fatica, la sensazione di fiato che viene a mancare, i dolori muscolari al collo, alla laringe, alla faringe, quindi a tutta la muscolatura dell'apparato, addirittura nelle situazioni in cui c'è più fatica, addirittura un disturbo a livello della muscolatura respiratoria, della muscolatura toracica. Posso aggiungere il bisogno di schiarirsi spesso la voce? Sì. Ma intanto arrivano diversi messaggi e Rosario da Roma mi fa tenerezza perché mi scrive: oggi sono completamente muto, sono un docente, devo correre dal medico, quanto tempo occorre per tornare normale? Dottoressa Cantarella, anch'io mi facevo le stesse domande di Rosario, in quanto torna la voce? È una domanda difficile perché bisognerebbe conoscere un po' gli antefatti. Immagino che si tratti di una forma infiammatoria, visto che l'ascoltatore non dice altro, ma in genere in queste situazioni il recupero può essere anche rapido, nell'arco di un paio di giorni, ma è molto importante osservare il riposo vocale e quindi sarebbe utile rinunciare agli impegni, chiudersi in casa in silenzio, fumenti della nonna, inalare vapore, bere tantissimo, bevande calde, ma soprattutto le corde vocali hanno bisogno di riposo, sono infiammate, sono gonfie, non sono in condizioni di vibrare. Se le mettiamo in vibrazione il processo infiammatorio durerà molto di più. Adesso voi potete dire tutto quello che volete sulla mia voce, che è stata trascurata, sforzata, ma io in linea una voce, non dico a 5, 10, 15 stelle, quella di Alessandro Safina. Ciao Alessandro! Ciao, buongiorno! Parla tu Alessandro, perché sennò qua i miei esperti mi fanno nera, come si dice. No, ma guarda, stava dicendo una cosa giustissima, il riposo è la migliore delle medicine. Senti, tu ti riposi spesso, la riposi spesso la voce, cosa fai per riposarla? Ti rubiamo un segreto. Guarda, fra un impegno e un altro, la cosa migliore veramente è il riposo. Poi io non sono maniaco di medicine, io non ne uso tante, sono anche fortunato perché non tutti abbiamo lo stesso tipo di tessuti, la stessa qualità di vocale. Io cerco quando sono impegnato, quando lavoro, cerco di fare vita sana, di mangiare bene, non bere, di fare molta attività fisica e quando è possibile di fare un po' di silenzio. Ecco, questo è. Senti Alessandro, non è niente di speciale, sono le cose forse secondo me più importanti. Alessandro, senti, dopo i tuoi consigli, vuoi tu chiedere mi sembra una proposta di matrimonio, vuoi chiedere tu? No, perché ti devo dire che tanto che chiacchieravamo prima dell'onda con la dottoressa Cantarella in redazione, dicevamo, però questo Alessandro Safina le ha tutte, ha una voce bellissima, è bello, no, ma per carità, è famoso, voce, senti, rischi... Una voce che so usare abbastanza bene, guarda, la voce è una cosa molto... è una cosa un po' misteriosa ancora. Io sto per esempio non sono neanche soddisfatto di come la uso, sto sempre cercando di migliorare, di studiare ma è bella la voce, è bello l'uso della voce, sì, proprio per quello, perché è un'evoluzione, è un percorso che ti segue durante tutta la vita, insomma. Senti Alessandro, tu hai una domanda da fare ai nostri esperti, così da approfittare con loro, ma insomma forse non ne ha, magari ha una curiosità. No, io vi ascolto volentieri, non ho ora domande che mi vengono in mente, guarda, sono a casa con l'influenza, quindi non è che... Mi raccomando, mi raccomando, i fumenti per l'influenza ci vogliono, dottor Franzetti? Assolutamente, umidificare la voce è la cosa migliore, la voce come tutto il cavo orale, la faringe è la cosa migliore, idratarsi, possibilmente con acqua non gasata. E riposo. Alessandro, un abbraccio. Grazie mille per essere stato con noi. Della possibilità che mi avete dato di intervenire con la mia poca esperienza. Grazie, un abbraccio. In bocca al lupo. Buon lavoro. Andrei a Pasqua, che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno, grazie prima di tutto. Dunque, io nel mio piccolo canto nel nostro coro parrocchiale. Ecco. Sono direi forse tra le più importanti che cantano, modestamente. Però il mio problema è sempre quel po' di catarro che mi si forma in gola. Sì. Sento sempre il bisogno, la necessità di raschiare la gola. Qualche volta uso qualche caramella, a parte che cantare con la caramella in bocca non si può assolutamente. Però è quel catarro lì che non mi lascia, che insomma Pasqua non è tranquilla, certo, è bella, limpida come dovrebbe, perché è una colonna del coro. E quindi, dottor Franzetti, che cosa può essere? Ma tre problemi bisogna valutare alla signora. Il primo, l'abbiamo già detto, che è il problema nasale, perché questo leggero scollo di muco può anche derivare da uno scollo nasale posteriore. Il secondo, che ha accennato prima che la dottoressa Cantarella, è che non bisogna mai escludere che ci sia magari un fatto di leggero reflusso gastroesofageo che, portando un'acidità diversa, irrita un po'. Irrita e porta anche una salivazione o comunque una produzione di muco che va lì a depositarsi sulle corde vocali. Ma la cosa che io invece penso sia il problema della signora è un problema, penso, di idratazione. Cioè, questo catarrino che si deposita, se fosse normalmente fluido, andrebbe via da solo. Il problema è che probabilmente non ha la sua fluidità giusta. E come si fa? E quindi bisogna capire prima se la signora ha qualche patologia generale, tipo il diabete o tipo altre cose, o assume dei farmaci che possono influire sulla salivazione, sulla fluidità. Secondo, se si idrata normalmente, cioè se beve almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, se nella sua dieta fa parte anche un'idratazione normale. Quindi già un altro consiglio. Poi, alle nostre corde vocali piace comunque l'acqua, essere idratate, esatto. E noi possiamo farlo attraverso, ci sono dei meccanismi nel nostro organismo che deputati a questo, ma sicuramente se le aiutiamo bevendo regolarmente, noi pensiamo sempre, no, che l'acqua si debba bere per altre cose, per depurarci, e invece ne beneficiano anche le corde vocali. Attenzione alle caramelle. Attenzione alle caramelle, no? Non... perché non tutte le caramelle vanno bene. Quali sono quelle che vanno bene? Per esempio ci sono delle caramelle che sembrano molto balsamiche, ma poi che invece fungono da irritanti se consumate in maniera troppo spesso. Ma allora, se io voglio per una caramella per ammorbidire un po', perché ci danno quella sensazione la voce, l'importante è non esagerare col numero. Saluto Maria Rosa, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. Mi faccia sentire la sua bella vocina. Una voce bella, purtroppo no, ho sempre avuto una voce abbastanza sgradevole. Ma perché? Ma non lo so, da ragazzina ho avuto un problema, mi è stato diagnosticato un falsetto e quindi all'età di 17 anni ho dovuto andare da una logopedista a impostare la voce e l'ho migliorata, in effetti l'ho migliorata, anche perché al mattino mi alzavo e non avevo voce fino alle 10, alle 11 di mattina. Poi questo difetto è quasi scomparso, però è sempre una voce abbastanza... A me piace. Senta Maria Rosa, il suo lei ha sente un problema? Ha un problema da raccontare ai nostri esperti oppure la sua era solo una testimonianza? A parte il fatto che io parlo molto in fretta e a volte mi manca persino il respiro e quindi ho sentito che bisognerebbe invece parlare molto adagio e dare modo di respirare. E poi ultimamente da qualche mese a questa parte ho sempre una raucedine che verso la fine della giornata diventa sempre più evidente. Allora, dottoressa Cantarella, Maria Rosa mi dà là per sottolineare l'importanza anche del lavoro delle logopediste per fare una sorta di riabilitazione e di rieducazione, quindi la voce può anche essere rieducata laddove presenta dei problemi che possono essere dati da un cattivo utilizzo della voce, e quindi questo lo ricordiamo perché non è, anzi sono degli esercizi che veramente permettono alla voce di migliorare e a noi di stare meglio. Ma per Maria Rosa quali indicazioni possiamo dare per questa raucedine mattutina che la preoccupa? Che accusa. Ma credo che per capire la sua situazione bisogna guardare un po' indietro nel tempo alla sua storia clinica. È molto interessante quello che ci racconta, fa pensare probabilmente ad una piccola malformazione congenita delle corde vocali che si chiama sulcus vocalis, sulcus glottidis. È una piccola solcatura sul bordo delle corde vocali che fa sì che le corde non si chiudano perfettamente durante l'emissione della voce. Questa chiusura è importante per poter sfruttare appieno l'aria che proviene dai polmoni. È possibile che lei abbia una situazione di questo tipo che l'ha portata nell'adolescenza a sviluppare una voce falsettante, una voce molto acuta per compenso. La logopedista l'ha molto ben riportata, perché dicevamo il ruolo del logopedista è fondamentale in queste patologie sia disfunzionali sia anche organiche legate cioè proprio ad un'alterazione congenita o acquisita delle corde vocali. L'ha riportata su una tonalità adeguata per una voce femminile, ma non ha certo potuto cambiare l'anatomia delle corde vocali, quindi probabilmente le corde vocali non si chiudono perfettamente. Lei usa tanta aria durante la fonazione, questo la porta alla sera o in determinate situazioni ad essere un po' affaticata, infame d'aria. Il consiglio è quello di parlare lentamente, darsi delle pause, non usare un volume troppo elevato della voce e magari ricontattare una logopedista perché qualche esercizio di recupero, di rinforzo e comunque magari fare una laringostroboscopia per valutare se c'è questo sulcus. Ringrazio allora i miei ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima parte di trasmissione. Adesso facciamo una pausa, poi di nuovo insieme per parlare della salute dei nostri piedi, perché come dice il proverbio, ad ogni piede la sua scarpa. A tra poco. Essere e benessere. Ed eccoci di nuovo insieme, adesso vi chiedo di concentrarvi sui vostri piedi, dato che immagino che non tutti voi siate a piedi nudi, guardate le vostre scarpe. State indossando quelle giuste che piacciono anche ai vostri piedi, oltre che a voi? Un dettaglio importante, questo molto importante, come ci spiegherà il professor Walter Albisetti. Buongiorno, benvenuto e grazie. Buongiorno a voi. Associato all'Università degli Studi di Milano, lavora all'Istituto Gaetano Pini ed è ortopedico del Teatro alla Scala di Milano. Iniziamo subito con il dire che una posizione scorretta del piede potrebbe anche avere delle ripercussioni, oltre che sul benessere del piede, anche sulla salute di ginocchia, schiena e collo, per cui attenzione alla scarpa che indossiamo. Quindi possiamo anche però fidarci del detto che la scarpa giusta è quella più comoda, o ci sono delle precisazioni da fare?

sempre con quelle caratteristiche che abbiamo detto prima. Allora, vogliamo fare proprio velocemente un riepilogo? Allora, la scarpa ideale deve... magari sembra ovvio, però la scarpa deve essere comoda, sì. La tomaia deve essere traspirante, sì. La suola deve essere ammortizzante, la stessa suola non deve essere scivolosa, sì. Il contrafforte, cioè il calcagno, deve bello essere solido, tosto, sì. Le dita devono potersi muovere, non devono stare lì rattrappite. Questo è veramente importante sottolinearlo, perché quando andavano di moda le scarpe mai a punta, avevamo queste dita strizzate. Esatto. Va bene, quindi dita comode che si le possono muovere. Si devono poter muovere, non deve stringere proprio al collo del piede. E i materiali devono essere materiali giusti, cioè che non portino dermatiti o eczemi, queste certo cose. E poi, secondo me è importante, la scarpa che indossiamo ci deve anche piacere. È vero, professor Albisetti, ci deve anche piacere. Io la ringrazio. Grazie a voi. Ci ha messo un po', come si dice, le ali ai piedi. Intanto ci sentiamo presto, un saluto e buona giornata. Grazie, grazie a voi. Il popolo dei mancini cresce, lo conferma una ricerca inglese, così oggi siamo, lo confesso, lo sono anch'io, l'11% della popolazione mondiale. La ragione è semplice, i bambini, per fortuna, non si costringono più ad usare la mano destra. Ma perché si nasce mancini? E soprattutto, quando si manifesta il mancinismo? Lo chiediamo al professor Carlo Caltagirone, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno. Direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma. Allora, professore, perché si nasce mancini? Guardi, intanto commentiamo il fatto che mancini sono soltanto il genere umano, nel senso che non esistono tracce di preferenza sistematica manuale nelle specie animali e neanche nei nostri cugini prossimi, insomma nelle scimpie antropomorfe, e quindi questa è una peculiarità che è legata alla specializzazione emisferica che hanno gli uomini soltanto. Di solito la stragrande maggioranza degli umani sono destrimani, ma c'è una buona percentuale, come diceva lei, oltre il 10%, che sono mancini. Probabilmente si nasce mancini perché ci sono delle asimmetrie nell'organizzazione cerebrale. Qualcuno vuol vedere in questo le tracce di una qualche sofferenza perinatale, ma è molto dubbio. E certamente i mancini sono in crescita, come diceva lei, appunto perché c'è un minor controllo sull'attitudine a utilizzare la mano sinistra, che abbiamo utilizzata precocissimamente. Già a poche ore dopo la nascita si nota una tendenza a usare più la mano sinistra in coloro che poi saranno definiti mancini più da adulti. Professore, a parte tutti i modi di dire, no? Mancino, tiro mancino, oppure anche il sinistro, mi sono alzato col piede sinistro, adesso ormai, ecco, tanto io sono un po' di parte, professore, ma non importa, ci abbiamo fatto il calo. Non è mica colpa nostra se lei è mancino. No, senta professore, però adesso abbiamo capito che non soltanto non è un'anomalia, ma può essere anche in alcuni casi un vantaggio, sbaglio? No, è proprio così, perché quello che stavo ipotizzando, quello che stavo affermando prima, è che la preferenza manuale per la mano sinistra, quella che appunto poi viene definita brevemente come mancinismo, è qualcosa che ha a che fare con una diversa organizzazione cerebrale. L'organizzazione cerebrale che si esprime non solo con la tendenza a utilizzare di più la mano sinistra, ma anche con un'organizzazione di funzioni cosiddette cognitive, come il linguaggio, le capacità di esplorare lo spazio, persino la memoria, che sono lievemente differenti nei mancini rispetto agli estrimani. Ma quello che succede è che nei mancini questa organizzazione è più interessante da certi punti di vista, perché è più bilaterale, mentre negli estrimani è più strettamente unilaterale. Questo significa che in caso, naturalmente nessuno lo auspica, di lesioni del sistema nervoso centrale, ad esempio degli stroke o degli ictus, quello che succede è che il mancino ha delle conseguenze sul versante cognitivo molto meno gravi del destrimane, perché supplisce con l'emisfero controlaterale, cosa che di solito il destrimane non riesce a fare. Senta professore, si può essere mancini per alcune attività e poi usare la destra per altre, cioè ambidestro, sì, sì. Si dice, ecco, ma questo cosa vuol dire, se abbiamo detto che, non so, il mancinismo dipende da un'organizzazione cerebrale? Chi usa con una certa disinvoltura entrambe le mani? Naturalmente, come lei diceva, questa situazione viene definita ambidestrismo, no? Le persone ambidestre, ma il problema è che la lateralizzazione, la preferenza manuale non sono un fenomeno tutto o niente, ma sono come dire un continuum, per cui dal mancinismo stretto, per cui si ha la preferenza manuale ma anche si calcia con il piede sinistro, oppure quando si mira si chiude l'occhio destro rispetto al sinistro e così via, cioè tutte le varie diciamo modalità attraverso cui si esprime una preferenza manuale e il mancinismo, esistono poi delle fasi successive, insomma, per cui c'è chi è un mancino ma tende a utilizzare la mano destra per esempio per alcune cose più grossolane, oppure tende a calciare con il piede destro. Quello che succede è che in definitiva non esiste naturalmente bianco-nero, ma c'è tutta una zona grigia molto interessante da studiare per chi si occupa di funzioni cerebrali, per cui in definitiva le funzioni cerebrali sono più diffuse, soprattutto nei mancini. In caso di lesione del sistema nervoso, la stessa funzione può essere sostenuta da diverse aree cerebrali, e questo più frequentemente nei mancini che nei destrimani. Grazie per essere stato con noi e le auguro una buona giornata. Altrettanto, grazie a lei, buona giornata e saluti a tutti. E adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e le autostrade, poi di nuovo insieme, questa volta per imparare a prenderci cura del nostro viso. Oggi partiamo dalla fronte. Essere e benessere. Adesso osservate la vostra fronte se potete, ma immagino che se anche non avete uno specchio a vostra disposizione potete dirci qualcosa di lei, perché le preoccupazioni, i pensieri la segnano. Lo sappiamo bene, ci sono persone che hanno rughe sottili che corrono lungo la fronte, ma a peggiorare la situazione si aggiungono due rughe profonde verticali che partono dalla base delle sopracciglia e scendono giù verso il naso, regalando quindi al nostro viso quell'espressione di stanchezza che certo non aiuta, ma io direi non preoccupiamoci, perché questo ci porterebbe ad aggrottare la fronte, quindi ad evidenziare il problema. Quindi stiamo belli rilassati e ci affidiamo ai consigli della dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco. Skineco è l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno dottoressa e grazie. Grazie, buongiorno. Allora, le rughe della fronte sono un cruccio. È vero che noi donne possiamo coprirle con una frangia, ma sì, comunque ci sono, si vedono. Un cruccio, Nicoletta, le rughe della fronte possono anche essere carine. Teniamo presente che in genere le rughe antipatiche che invecchiano il volto sono quelle verticali, sì. Quelle orizzontali invece sono rughe relativamente, chiamiamole allegre, sì. Quelle verticali della fronte sono le rughe glabellari e sono dovute al continuo corrucciamento, che può essere sia legato a momenti di arrabbiatura, sia anche a disturbi della vista. Io per esempio le ho perché sono ipermetrope, allora per mettere a fuoco corruccio un po', corrugo, ecco. Mentre le rughe orizzontali sono chiamate anche le pieghe del sognatore, perché sono proprio tipiche di chi alza la fronte in modo un po' sognante, e non sempre vanno proprio viste con orrore, anzi possono essere un segnale simpatico di un volto sognante. Stiamo imparando ad amarle un po' di più queste rughe, dopo anni in cui a tutti i costi si dovevano cancellare, adesso stiamo vedendo un po' i risultati dei visi senza rughe, che sembrano abbastanza di plastica, tutti uguali, e quindi facciamo ancora amicizia con le nostre rughe più o meno profonde. Comunque, dottoressa Serri, il problema è che spesso, anche quando ci spalmiamo la crema al mattino, la fronte la dimentichiamo un po'. Allora, quanto è importante il massaggio e quali creme fanno bene alla nostra fronte? Non abbiamo delle creme specifiche per fronte, ma sicuramente qualche indicazione in più lei è in grado di darcela. Noi prendiamo appunti. Certamente. Innanzitutto è molto importante ricordarsi, quando si va al sole, di mettere sempre una protezione solare, perché sulla fronte arriva proprio il sole molto diretto e picchia forte, sì. Diciamo. In più, se si indossano occhiali da sole, il riflesso va sulla fronte e sulle guance. Poi sicuramente mettere una crema sia alla mattina sia alla sera, adatta al proprio tipo di pelle. Io sono sempre dell'idea che le creme che hanno fattori di protezione cellulare, per esempio antiossidanti, contenenti vitamine, contenenti vitamina C, vitamina E, vitamina A, tutte le vitamine del gruppo B, e poi fattori anche oli vegetali, burro di karité, acido ialuronico, fattori idratanti, sono tutte molto utili. Vanno però scelte in base al proprio tipo di pelle. Sì. Molto utile è proprio il massaggio. Quando ci si mette una crema è bene distendere la fronte e massaggiare bene. Un esercizio che si può fare durante la giornata è quello di mettere due dita, farsi dell'autoshatsu, chiamiamolo. Sì. Mettere due dita proprio dove c'è l'attaccatura dei capelli, sì, dove ci sono le rientranze proprio del bordo del capillizio, e premere per 6 secondi, rilasciare, ripremere, e lo stesso fare sulle sopracciglia. Sì, lo questo sto facendo. Aiuta a distendere la fronte, e perché il rilassamento della muscolatura della fronte aiuta anche a impedire che le pieghe mimiche, sia quelle orizzontali sia quelle verticali, si approfondiscano sempre di più. In pratica, durante la giornata è importante ogni tanto ricordarsi di rilassare la muscolatura del volto. E questo è importante, è un esercizio che ci rilassa, ci dà una sensazione di relax generale. Se ci concentriamo sulla fronte, magari riusciamo ad alleggerirci anche di qualche problema. Dottoressa Serri, io la ringrazio per essere stata con noi, proveremo questi suoi consigli e le faremo sapere. E intanto poi con la dottoressa Serri di settimana in settimana ci occuperemo di alcune zone del nostro viso. Siamo partiti dalla fronte, la prossima settimana parleremo della zona perioculare, che anche quella è sempre segnata, dottoressa Serri, per cui lì avremo bisogno sicuramente dei suoi consigli, sino a scendere, sino al collo. Dottoressa Serri, quindi a lei un appuntamento per la prossima settimana. Perfetto, grazie. Sono molto contenta, anche perché le rughe non vanno combattute, vanno migliorate. Noi non dobbiamo spianarci, ma dobbiamo essere sempre più belli. E ce la faremo. Grazie, dottoressa Serri. Buongiorno e buon lavoro. E adesso parliamo di ecografia in gravidanza. Per il controllo di una gravidanza fisiologica sono previste 3 ecografie esenti da ticket entro la 13ª settimana, tra la 19ª e la 23ª e tra la 28ª e la 32ª. Ma i dati dimostrano che c'è una tendenza crescente da parte delle mamme in attesa di sottoporsi a un numero ben più elevato di questi controlli. Insomma, si arriva addirittura anche a raddoppiare il numero, nonostante le linee guida parlino chiaro e fissino a 3 i controlli ecografici sufficienti e necessari. Allora abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza insieme alla professoressa Cetin, primario del reparto di ginecologia dell'ospedale Sacco, Università di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa, 3 è il numero perfetto per una gravidanza fisiologica. Bastano, secondo infatti le linee guida, questi controlli in diversi momenti della gravidanza, fornire tutte le informazioni necessarie. Quali in particolare? Queste ecografie sono molto importanti perché la prima, nel primo trimestre, ci consente di avere una datazione precisa della gravidanza e di escludere alcuni problemi, per esempio la gravidanza extrauterina o per esempio diagnosticare per tempo una gravidanza gemellare. Sì. Questi sono, diciamo, i principali motivi per la prima ecografia, che tra l'altro è anche molto importante per i genitori, perché la mamma non ha ancora la percezione dei movimenti e si accorge, quindi in un modo molto concreto si rende conto di essere di stare per diventare mamma, anche se ci vorrà ancora molto tempo. Sì, è una grande emozione. È una grande emozione, anche perché in quell'ecografia in particolare si riesce a vedere tutto l'embrione. Sì. Invece poi più avanti, l'ecografia a 20 settimane circa, quella che si fa appunto nel secondo trimestre, è la cosiddetta ecografia morfologica, è un'ecografia fondamentale per ricontrollare ovviamente ancora che il feto stia crescendo, che sia vitale, ma soprattutto per escludere la presenza di malformazioni. Sì. E quindi vengono proprio visualizzati, ci vuole molto tempo per questa ecografia, deve essere fatta con uno schema molto preciso, devono essere operatori comunque che hanno avuto un training specifico, sono specialisti in ostetricia e ginecologia che hanno un training proprio in questo campo, che è quello dell'ecografia morfologica, che ci dice se c'è una malformazione a vari livelli, oppure al contrario, come di solito è la cosa più frequente, naturalmente ci conferma la normalità. Certo. In più può evidenziare anche, per esempio, a questo punto si possono vedere anche delle anomalie di inserzione della placenta, la famosa placenta previa, che può portare poi a dei rischi ed è giusto conoscerlo, perché a quel punto la donna dovrà seguire delle attenzioni diverse. Particolari, certo. Esatto. La terza ecografia, sì, che è quella del terzo trimestre, anch'essa è molto importante perché consente di valutare la crescita del bambino, perché nella seconda metà della gravidanza si verificano eventuali alterazioni della crescita o in eccesso o in difetto, che sono quelli che possono poi essere curati, per esempio magari anticipando il parto se sia il caso dell'iposviluppo. Certo. Senta professoressa, però ci sono delle coppie, delle mamme che cercano di controllare di più tramite l'ecografia la gravidanza. I medici però dicono che naturalmente si tratta di un controllo che deve essere sempre solo suggerito dallo specialista. Eh sì, allora è chiaro che, come dicevamo prima, per la mamma è una grande emozione vedere il proprio bambino che cresce, vedere il cuoricino che batte e tutte queste cose. Alcuni aspetti sono ovviamente fondamentali, quindi controllare la vitalità, controllare il battito cardiaco lo si fa ad ogni visita ostetrica, però riguardare sempre l'aspetto morfologico, ricontrollare cose che non serve controllare, non è detto che sia utile, e a volte può anche creare magari qualche dubbio, qualche incertezza inutile. Naturalmente tutto questo discorso è valido nella situazione in cui stiamo parlando di una persona che non ha fattori di rischio, perché certo, naturalmente se per esempio stiamo parlando di una donna che ha una gravidanza gemellare, oppure in cui abbiamo individuato qualche problema a livello placentare, o che ha già avuto una gravidanza con problemi di crescita fetale, in questi casi naturalmente i controlli possono essere più ravvicinati, ma c'è proprio un'indicazione. C'è un'indicazione precisa. Senta, professoressa, a proposito di indicazione precisa, l'eco tradizionale si affianca anche quella tridimensionale. Sì. Quali sono le indicazioni che giustificano questo tipo di controllo? Allora, adesso naturalmente è molto di moda parlare di ecografia tridimensionale, naturalmente ci consente di vedere la terza dimensione, quindi si ha, come dire, la visione del proprio, per esempio, del volto del bambino. Anche questo sicuramente può rappresentare una grande emozione, però francamente non è proprio, sì, non è un filmino, certo, poi per i filmini c'è tempo, vero professoressa Cetini? Esatto, ecco. Assolutamente, anche perché è giusto lasciare un pochino di qualcosa di che non si sa ancora, e un pochino di emozione alla nascita ci vuole, veramente è un momento fantastico. Quindi l'ecografia tridimensionale ha anch'essa delle indicazioni però importantissime. Per esempio la visualizzazione di alcune malformazioni che sono più prettamente cutanee, o per esempio anche nel caso del labbro leporino, di alcune malformazioni cardiache dove si può non solo vedere la tridimensione, ma addirittura adesso esistono degli ecografi con la quarta dimensione che consente di vedere la valvola cardiaca come una valvola, e anche che si muove in tempo reale. Quindi se noi vogliamo osservare delle malformazioni cardiache può essere molto utile guardarle in tre dimensioni, ma ripeto, sono cose veramente molto specialistiche che si fanno in centri specializzati. Certo. Senta professoressa, invece ogni mamma si sottopone ad una visita mensile durante la quale il ginecologo effettua una serie di controlli, li ricordiamo rapidamente? Sì, ecco, questo è molto importante, veramente è molto importante seguire adeguatamente la gravidanza con dei controlli di base che sono: allora, quando il ginecologo vede una donna gravida, ogni volta le richiederà chiaramente alcuni, se ha avuto disturbi, se per esempio non ha sentito bene i movimenti del bambino. Le cose che poi il ginecologo o la ginecologa controllano sono l'aumento di peso, perché è molto importante che sia costante, deve essere un aumento di peso, deve rientrare entro certi limiti, certo, in pratica diciamo non deve superare i 3 kg al mese, deve essere di almeno 1 kg al mese, questa è una generale norma. Poi si controlla la pressione, anche questo è fondamentale perché una delle patologie più gravi della gravidanza è la preeclampsia, quella che si chiamava gestosi una volta, e non da ultimo ma assolutamente fondamentale è anche controllare l'aumento del volume dell'utero con la visita proprio dall'esterno, sì, controllare che l'utero sia rilasciato, che non ci siano contrazioni, e controllare che il collo dell'utero non si modifichi in un modo tale, per esempio, da presupporre ci possa essere una minaccia d'aborto o di parto prematuro. Dopodiché esiste naturalmente anche la valutazione degli esami anatici, certo, che viene fatta routinariamente. Che vengono fatti di routine. Va bene, allora siamo pronti, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie. Buona giornata. Arrivederci, grazie. E per oggi è tutto, l'appuntamento con la salute torna domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Come sempre vi auguro una buonissima giornata, un saluto da Nicoletta Carbone.